E andremo a dare poi alcuni aggiornamenti rispetto alla campagna per la libertà di studiare, la libertà di dissenso per tutti i compagni e studenti attualmente sottoposti a misure cautelari, e vi presenteremo anche con un po' di approfondimento musicale la serata di questo venerdì, che sarà appunto benefit per questa campagna, che vedrà Murubuto appunto al campus Einaudi per un concerto benefit. Questo è più o meno quanto, poi andremo a dare anche qualche breve aggiornamento di rassegna stampa sia dal locale sia anche dal contesto internazionale. Ora vi lasciamo un po' di musica, poi iniziamo subito con la puntata. E si avrampa, si prende, si spinge, mo è funky do, è funky do. Viene via come viene a chi viene da sé. È funky c'è, è funky c'è. Con ste ritmiche tecniche da Shogun. È funka un, è funka un, è funka un, è funka un, è funka un, è funka un. Cosa? Ma che è sta merda? Beh, in effetti. Perché non cacci un po' di sapido rap? Sapido là, è quello che si straccia qua. Abono bla bla, cicetone slabra. Sto magma come fa chi ne sgamba. Mi banfi di bamba, babbo sta branda. Come King King, fammi il giusto team. A Bologna è un film, sbattaccare lo team. Puoi buttarla sulla gay come Mr. Bean. Ma non puoi fare il capo degli ascescini. Io sono come Nemo nei misti freaks. E non vado in skate, ma c'ho tristi fix. E ci credo no chicks, da unisse ai freaks. Mo mi spingi nella tua playlist. Proprio il Mr. Chicks, disco, pisco, smisto, hits e shits e viste il bismo. Business di freestyle, mix, sta pista qui, pisto, fisso, non previsto. Quale cicco che ti smazza, la hit voodoo. È funk pa' you, è funk pa' you. E si avanza, si prende, si spinge, mo è funky do, è funky do. Sta di fatto, ceppo, metico, spacco. Cogito la logica che non v'è. Test per snack, spressi tech, jazzy rex. Quindi distingui miei PS net. Pushy hashtag, fatti flashback. Quando stavo all'angolo, cash e stack. E prec, un aspect, ti stranisce, no. Ma se mai non lo sai, mi suona meglio, mo. Mi suona chiaro, mo. Sa da fare, mo. In più è legale, mo. E ti sale, mo. E un bacino segue il film con malanimo. Quando chick picks, twist e cane. Ma tu vai con i blood and roll. Blood and roll. Seduco beats, licks, districo il lessico. Produco il classico. Flash e poi si va giù. Quando è il cicco che ti smazza, la hit voodoo. Quando è il cicco che ti smazza, la hit voodoo. È funk pa' you, è funk pa' you. E si avanza, si prende, si spinge, mo. È funky do, è funky do. Viene via come viene a chi viene da sé. È funk e c'è, è funk e c'è. Con ste ritmiche tecniche da Shogun. È funka un, è funka un. Zika, cica, pizza, serie A. Pasta seria, suona in zona Italia. Si sdraia in starea, sa storia mia. Pigliato e già sta nell'aria. When worse come the worst, my peoples come first. When worse come the worst, my peoples come first. When worse come the worst, my peoples come first. Yo, some people got good friends, and now I live my life right. Intense. On the edge, on the wire. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't. The track, out the yo, mix. My life is good. I got my peeps in the mix, so. Worst come to worst, my peoples come first. I got worldwide family all over the earth, and I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, the streets, the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Yeah. And if mine are needy, I need to feed mine. When worst come to worst, set up shop and write a verse. Actually, what? That's best come to best. My lyrics take care of me, they therapy, get shit off my chest. Extra stress, 3-4 over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. When worst come to worst, my peoples come first. Word up, if worst comes to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Gifted unlimited with dilated people. Babu, evidence, Irish science, and a shout out to my man Alchemist on the Trizap. I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. I've studied with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. These California streets ain't paved with gold. When worse come to worse, my peoples come first. I got that back. At the end of the day, we could go our separate ways, but the song remains and won't change. Got my target locked in rain. I might switch gears, but first I switch lanes. Without my people, I got nothing to gain. That's why first come the worst, my people's come first. Special victims unit, catalyst for movement. Create to devastate since 84, show improvement. Definitely dilated, people's comes first. Cross training spar, we raise the bar, and we put it in your ear no matter who you are. Worst come the worst, my peoples come first. Worst come the worst. Worst come the worst, my peoples come first. My peoples come first. Allora, prima di cominciare con le dirette di questa mattinata, ci interessava insomma fare giusto due parole su quanto ci sarà insomma qua questo sabato a Torino, nella nostra città. Parliamo infatti del corteo di sabato, appunto lanciato dal Movimento per il diritto all'abitare. Sappiamo che nel corso di questi giorni, anche questa mattina, insomma, sono già stati fatti degli approfondimenti, ma pensiamo anche che come universitari sia comunque un discorso che ci interessa portare, una data che ci interessa attraversare, dal momento che si parla di una manifestazione che vuole lanciare un messaggio forte al futuro sindaco. Siamo a una settimana dalle elezioni amministrative, vuole lanciare un messaggio per, insomma, poiché sappiamo benissimo che problemi come quello abitativo, problema come la mancanza di lavoro, la sanità, è un'università sempre più inaccessibile e costosa, sono scelte ben precise causate da chi ci governa e che tramite i ricatti spera di restare al potere. Infatti proprio basta ricatti è la parola d'ordine di questa manifestazione. Ecco, chi governa questa città è lo stesso partito, il PD, che nell'ultimo anno ha aumentato le tasse universitarie con la riforma del nuovo ISE, che insomma appunto ci riguarda come universitari, ma in realtà riconosciamo essere benissimo un problema che insomma unisce tutti, anche i vari pezzi di composizione intorno a noi. Usa l'università per fare le passeggiatine elettorali in compagnia del rettore, dello stesso partito che si riempie sempre la bocca con i soliti paroloni sulla Torino Smart dei giovani e della cultura, sulla Torino nuova città universitaria. Insomma, gli piace dare questa faccia a una Torino giovane e per i giovani, ma insomma tace sempre sui costi che noi vediamo e che viviamo quotidianamente sulla nostra pelle, costi sempre più insostenibili degli alloggi, dei trasporti, e vediamo anche benissimo le manovre che stanno dietro al modo di questo sistema di riorganizzare l'assetto urbano della città per garantire profitto ai soliti speculatori, alla compagnia di San Paolo e ai soliti noti di questa città. Infatti, come non parlare del master plan, che appunto è un piano che va proprio in questo senso, è la privatizzazione dei servizi universitari e delle residenze universitarie, che sono insomma manovre care, inutili, anche dannose per noi e per i quartieri che andranno non mi viene la parola, insomma, in cui andranno a manovrare. E quindi niente, ci interessava giusto ricordare questo appuntamento

sun in. Love to be alive, feet hit the ground running. Butterflies in my stomach like I'm anxious trying to get it. Trying to learn a lot from it. On a planet in regression, in the loft at the summit. Air is much clearer, catch me on the high road. Some fight to live, others settle for survival. It's your world, you could write the line you live your life on. It's heavy but you're strong, just hold on until that light dawns. It's starting now, pardon me, we're partying. Escalating, redefining the state of the art again. Celebrating, elevators open up to secret floors. Different rules and secret laws, from the roof you'll see the stars. Only fear boredom in a world of raw materials. Excited by potential, inspired by adventure. Calculated circles, the circumference and the radius. The only cast afloat without a float through the parade is us. The heart of the work, well, the long of the day. Easy they come, but the sun don't stay. Trying to come quiet, hoping I pray. Somebody show me the way, somebody show me the way. I've been through some pitfalls to knock me down. Made it through close calls and lost some ground. It's a hell of a price I pay. Somebody show me the way. Show me the way. It's routine, by the beach I rise. First up, I hit the weed, then I bleach my eyes. Then it's to the drum machine to speak my mind. Tracks like fitted hats, pick a beat my size. Energizing on the darkest streets I shine. Saw the light up on the mountain to the peak I climb. 11:18, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli. Allora, come vi avevamo annunciato poco fa, iniziamo con la prima diretta. Abbiamo a questi microfoni Martina da Parigi, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere di nuovo con noi. Ciao Martina. Ciao a tutti e tutte. Allora, con te volevamo dare appunto alcuni aggiornamenti sulla situazione francese, che abbiamo insomma già seguito più volte in questi mesi. In questi ultimi giorni l'attenzione è stata puntata soprattutto sulla questione dei blocchi delle raffinerie, che insomma sembrano aver effettivamente messo in difficoltà il governo, tanto che ieri ci sono stati poi sgomberi anche molto violenti di queste raffinerie occupate. Però sappiamo che anche sul fronte studentesco, che poi è un po' anche la parte più insomma vivace delle manifestazioni che si sono succedute in questi mesi, continua appunto la mobilitazione. In particolare ieri ci sono stati di nuovo blocchi nei licei, in seguito anche all'arrivo dei primi provvedimenti che insomma non solo a livello giudiziario ma anche all'interno dei singoli istituti iniziano a tentare di arginare la protesta, andando appunto a punire una serie di studenti che si sono resi protagonisti di questa mobilitazione. E sappiamo che poi per domani invece è stato lanciato di nuovo un corteo, quindi magari ti lascerei subito la parola per insomma raccontarci un po' di questi ultimi giorni, di quali sono le prospettive per quelli a venire. Ok, allora appunto come dicevi iniziano a piovere diciamo i provvedimenti disciplinari che appunto nei licei soprattutto colpiscono gli studenti medi, che appunto sono stati un po' il motore nella prima parte di tutta la mobilitazione contro la legge sul lavoro. E quindi ieri ci sono stati diversi presidi davanti a diversi licei, uno in un liceo piuttosto centrale di Parigi, in cui appunto l'amministrazione aveva appunto impedito il blocco più volte, e appunto ci sono state messe in atto questi mezzi di pressione, e quindi per il momento c'erano tre studenti esclusi e sospesi appunto per diversi giorni. E poi durante però il presidio davanti al liceo diciamo che le sospensioni sono state tolte. Poi c'era un altro presidio davanti invece ad un liceo in periferia nord a Nanterre, dove appunto erano già stati messi in stato di fermo 13 studenti all'inizio del mese di maggio, e appunto erano stati richiamati da questo organo che si chiama per la sicurezza territoriale di Nanterre appunto, e in questo senso si è appunto andato a creare anche un collettivo di sostegno per gli studenti, per le famiglie, perché appunto poi tra l'altro ci sono anche minorenni ovviamente, quindi sostegno legale e non solo. Questo per quanto riguarda i licei. Per quanto riguarda poi la repressione in generale, diciamo che poi in seguito al, al corteo spontaneo che era partito da Repubblica la scorsa settimana, a partire appunto da, da quella piazza che era stata investita quel giorno dal, dal presidio della polizia contro la, l'odio anti-sbirri, e che appunto si era poi riversata questa manif spontanea nelle strade di Parigi e che aveva incontrato una macchina di polizia sul suo percorso, macchina che appunto è stata presa d'assalto durante il corteo, e per questo episodio ci sono 4 persone che in questo momento sono accusate di tentativo di omicidio volontario e in questo momento appunto sono in detenzione aspettando il processo, quindi diciamo che inizia a farsi sentire appunto la repressione, oltre poi a vari divieti di partecipazione alle, alle manifestazioni in giorni specifici, eccetera. Sì, tra l'altro rispetto a questo episodio della macchina mi sembra anche che l'accusa, insomma, pesantissima e gravissima che grava in questo momento su queste persone sia anche un po' il riflesso del clamore mediatico che era stato dato attorno a questo episodio, che insomma nel contesto di tutto quello che sta avvenendo in questi mesi in Francia appunto fa un po' il gioco mediatico del puntare tutto su, su singoli episodi cercando di gonfiarli insomma più di quanto non siano. Esatto, anche perché appunto diciamo è stata proprio un po' una strategia del capro espiatorio, anche perché queste 4 persone sono state andate a cercare a casa poi il giorno dopo, non sono state fermate sul momento del, della manifestazione appunto, e tra l'altro questa accusa gravissima non è la prima volta, nel senso che anche a Rennes mi pare che sia stato dato appunto questo tentativo di omicidio volontario ad un'altra persona, tra l'altro mi pare uno studente medio, e quindi appunto ovviamente a livello mediatico questa cosa è stata ripresa e ha fatto proprio un po' il gioco mediatico appunto che conosciamo, insomma. Ecco, venendo invece alla giornata di domani, abbiamo visto appunto che ci sarà un corteo al, insomma, con lo slogan blocchiamo e occupiamo per continuare la lotta. Sarà una giornata esclusivamente studentesca o ci sarà, diciamo, una convergenza come è stato finora anche con altre insomma, categorie che stanno sostenendo la mobilitazione? Allora, domani sarà un'altra giornata di sciopero generale, quindi oltre agli studenti ci saranno i sindacati in piazza, quindi è una delle date lanciate da, dai vari sindacati, e appunto diciamo che si vedrà un po' come andrà questo corteo. Diciamo che ultimamente i vari cortei che ci sono stati ultimamente sono stati anche duramente repressi, e diciamo che è sempre più difficile arrivare fino in fondo nonostante poi i percorsi siano autorizzati proprio perché deposti da, dai vari sindacati, e niente, quindi domani il percorso sarà abbastanza e c'è di nuovo l'appello appunto per questo spezzone di testo e di corteo senza bandiere, senza appunto per tutti coloro che non si riconoscono nelle varie sigle sindacali e che vogliono appunto essere una parte più viva e anche di solidarietà rispetto a tutti quelli che appunto vengono definiti caster eccetera, in questo dibattito mediatico che è sempre più forte, ecco, e quindi appunto ci sarà lo spezzone di testa e poi i vari sindacati dietro. E rispetto a questa appunto la questione dei blocchi delle raffinerie a cui accennavamo già prima, domani ci sarà appunto anche una presenza di queste componenti, qual è la situazione? Ieri abbiamo letto appunto di questi sgomberi, tra l'altro molto violenti, anche perché hanno incontrato una resistenza piuttosto strenua. Volevamo capire appunto se questi blocchi poi sono ripresi dopo la giornata di ieri, se domani appunto ci sarà una presenza anche rispetto a questa parte di mobilitazione. Sì, immagino di sì, e poi appunto i blocchi continuano, e tra l'altro appunto oltre alle raffinerie è stato chiamato lo sciopero per le centrali nucleari a partire da domani, e quindi appunto sicuramente ci sarà anche tutta questa, questi settori insieme poi ai ferrovieri che appunto sono in sciopero, e la posta, l'aviazione, diciamo ci sono diversi settori che sicuramente saranno in piazza domani. Ecco, all'oggi qual è la situazione rispetto all'approvazione della legge? Insomma, sappiamo che ormai la protesta, soprattutto sul fronte più giovanile, in un certo senso eccede poi quella che è l'opposizione alla riforma del lavoro, però dall'altro abbiamo visto anche che appunto il governo francese ha tentato un po' una prova di forza nelle ultime settimane, tentando di accelerare appunto sull'approvazione con insomma una serie di strumenti anche un po' eccezionali, appunto nel senso di cercare di appunto sfidare la piazza e di appunto accelerare su questa approvazione. Qual è ad oggi lo stato dell'arte? Allora, diciamo che mi pare che appunto la prossima data, diciamo, finale sarà poi verso metà giugno, proprio poi a Martina, aspetta che non ti sentiamo bene, prova forse. Mi senti? Ora sì, se hai voglia di ripeterci quest'ultimo pezzettino che ti abbiamo sentito un po' a scatti. Ok, dicevo che appunto in seguito al passaggio in Parlamento della legge, la prossima data sarà quella intorno alla prima metà di giugno, perché appunto mi pare che il 14 di giugno dovrà essere votata anche in Senato, e infatti quella è la seconda data che è stata lanciata dai vari sindacati. Infatti niente, diciamo che le due date di mobilitazione di sciopero generale lanciate dai sindacati per ora sono domani e il 14 giugno, e in mezzo poi sicuramente usciranno altre date, però per il momento sono quelle date dai sindacati, e appunto perché sarà un po' lì che si giocherà, diciamo, la partita finale sul piano proprio più specifico della legge, insomma. Va bene, Martina, noi da qui ti ringraziamo insomma per questo aggiornamento, sicuramente avremo modo di risentirci nelle prossime settimane, visto che la situazione insomma sembra in continuo divenire, e appunto anche questa convergenza tra componenti diverse apre sicuramente degli scenari interessanti nel momento in cui appunto si riesce poi a fare un blocco effettivo di quello che insomma sono i flussi di merci, di materie, e appunto su questo ci sembra di vedere che ci sia una difficoltà reale, quindi immagino che sicuramente avremo di che riaggiornarci nelle prossime puntate. Per ora insomma ti ringraziamo e ti salutiamo. Ciao. Yo, do me a favor. What? Accidentally step on your white sunglasses. We don't wear those over here. This is hip-hop. Uh-huh. This is Carhartt jackets. Yeah. Timberland boots unlaced. Yep. This is Champion hoodies. Chicken wings and french fries. R.I.P. pieces on the handball court. You see? This is us still fighting police brutality. Everybody running their mouth about how they real. Ringtones blowing the doors off album sales. Need to be telling the people about how they feel. Yep. So that's how it all started. I'm surprised they feel. Ill music just ain't what it used to. They used to have songs that you could shoplift or boost to. This is the truth too. Yep. Listen, we gon' pop in the juice truth. Don't run up in the mall, get loose, boo. Hard streets, hard times, beats and hard rhymes. 5% is teaching the guard lines. Two turntables, a mixer, few speakers. Haze didn't exist yet, they blew reefer. Pink champagne, plenty of malt liquor. Extension cords ran through grandma's kitchen. Fashion statements, back to safety. Now D-Block Royal, back to facing. Oh man, this is hip hop. Hands up if you forever been a hip hop. I wake up hip hop, go to sleep hip hop. Dream I'm hip hop, cause I am hip hop. Oh man, this is hip hop. Hands up if you forever been a hip hop. I wake up hip hop. I knew it was going down from the start. I be backstage with that extra pound in my heart. Butterflies, what a vibe when I tear that whole crowd apart. It's hip hop. My lips got problems, I spit hot shit. Watch the Kid Rock albums, I hurt verses and bruise flows. Who knows what's next and when? I'm like an NBA game, nothing less than 10. It's like all kind of diseases infest my pen. I'm sick, I gotta spit, I can't digest my phlegm. This gift used to be a curse if you don't use it right. So quote me now, tell half of these dudes tonight. They let the lion out the cage and drag it from out the cage. Dudes worship them, girls be dragging them off the stage. You dudes weak, you ruined me, you don't hurt the track. Get the producer my contacts, I'll murder that. Oh, man. This is hip hop, hands up if you forever been a hip hop. I wake up hip hop, go to sleep hip hop, dream about hip hop, cause I am hip hop. See you, this is hip hop, hands up if you forever been a hip hop. I wake back up hip hop, go to sleep hip hop, dream about hip hop, cause I am hip hop. Just when y'all thought Queensbridge was the rat, Nas came back bridging the gap. Joey Crack told the whole map to lean back. For a second you would've thought New York was taking the scene back. Even John dropped a mean track. It went, I'm from New York, the first city to have heads to fiend for crack. Now I hear about us, who's a blood, who's a crip. Religious leaders only teach half of the truth. I'd rather rock a fake gold crucifix than them platinum white Jesus faces. He rap like he's a racist. Know a philosopher that reads the pages of that knowledge I try to keep away from me for ages. Oh, man, it's like I'm in a race against time. Couple years ago I couldn't wait to get signed. I thought automatically that my face would get shine. But being lyrical was just a waste of slick rhyme. But so, still I annihilate though. Insiolate the place with the fireplace flow. The day I can with me or to well or tea, that's the day hell gone free. Oh man, this is hip hop, hands up if you forever been a hip hop. I wake up hip hop, go to sleep hip hop, dream about hip hop, cause I am hip hop. Oh man, this is hip hop, hands up if you forever been a hip hop. I wake up hip hop, go to sleep hip hop, dream about hip hop, cause I am hip hop. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. Lucifer was all around me. So I kept running until I found my safe haven. I was trying to convince myself the stripes I got, making myself realize where my foundation was. In the room, and I run. While my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one. A war that was based on apartheid and discrimination. Greatest ever do this shit. Oh, my mama don't like. On the dead homies. Hey, Soundwave, turn this shit up, nigga. Turn this shit up. Soundwave, turn this shit up, nigga. Tell me who the bitch, nigga, hating on me. Jumping on my dick, but this dick ain't free. To Pimp a Butterfly, another classic CD. Ghetto lullaby for everyone they MC. Blah, blah, blah, blah. Nigga, now R.I.P. My diligence is only meant to write your eulogy. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I. Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be

jungle fever. You in that control, the threesome, just roll the weed up until I get me some. We formed a new religion, no sins as long as there's permission. And deception is the only felony to never fuck nobody without telling me. Sunglasses and Advil, last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cabs still. Think about the girl in all leopard who was rubbing the wood like Kiki Shepherd. Two tattoos, one red. 11.43, torniamo in diretta con Parole Ribelli. Prima di proseguire con la prossima diretta facciamo un breve stacco con uno sguardo internazionale alle mobilitazioni studentesche, in particolare a quanto sta accadendo in Cile, dove dopo insomma il grande ciclo di mobilitazione iniziato nel 2011 che aveva visto un protagonismo studentesco e giovanile molto forte, anche molto continuativo, appunto i cortei e le manifestazioni erano andati avanti molto a lungo, adesso appunto in queste settimane è ripresa una protesta contro una riforma educativa promossa dal governo di Michel Bachelet. E nella giornata di ieri appunto c'è stata un'azione da parte di un gruppo di studenti al palazzo del governo, che appunto sono riusciti a introdursi dentro questa sede governativa per protestare contro questa riforma e chiedere un'educazione pubblica di qualità e gratuita, che un po' era lo slogan appunto che già riecheggiava nelle piazze di qualche anno fa. Ovviamente all'ingresso è seguita subito l'azione della polizia anche molto violenta, si parla di almeno 10 studenti che sono stati arrestati. Però appunto c'è da dire che questa iniziativa di ieri si inserisce in un momento di protesta e di mobilitazione generalizzato che insomma sta bloccando tutti i licei di Santiago del Cile, ma immaginiamo anche insomma nel resto del paese, con gli studenti che appunto accusano il governo di aver distrutto tutti i servizi pubblici, non solo la scuola ma a partire dai trasporti, dalla sanità e non solo, quindi insomma una protesta che sta coinvolgendo anche altre componenti al di fuori di quella studentesca. Insomma questo è quello che siamo riusciti a reperire tramite quotidiani online che appunto riportano in diversi questa notizia di ieri. Insomma vedremo anche in base all'eventuale sviluppo delle prossime settimane se poi riusciamo a fare qualche approfondimento invece un po' più puntuale appunto su quanto sta accadendo con eventuali contatti. Adesso vi lasciamo ancora un pezzo musicale mentre ci mettiamo in collegamento con i compagni e le compagne di Bologna. Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong on that. Sniffing up drugs all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. B, boys and girls, listen again. This is for grown looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't wanna be my age and can't read and write. Begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna now, be. Go. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna be. Be. Before we came to this country, we were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military conveyed it. They heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked. Slavery was money, so they began making slave ships. Bene, torniamo adesso con passiamo adesso a Bologna, come avevamo annunciato all'inizio della trasmissione. Bologna è notizia di ieri pomeriggio, che per quattro studenti del collettivo universitario autonomo sono state disposte da parte del Senato accademico delle sanzioni disciplinari. Delle sanzioni disciplinari, sospensioni di 2 mesi dalle lezioni e della possibilità di dare degli esami, in seguito alle contestazioni al professore, nonché editorialista del Corriere della Sera, Angelo Panebianco, contestazioni avvenute il 22 febbraio di quest'anno. Con noi da Bologna, dal collettivo universitario autonomo, Luca. Ciao Luca. Ciao a tutti e a tutte, buongiorno. Ecco Luca, noi ti chiederemmo di farci un po' un racconto di quello che era stata la giornata del 22 di febbraio, quando eravate entrati appunto nell'aula dove Angelo Panebianco stava tenendo la sua lezione, per interromperla. Sì, dunque, praticamente la giornata fu appunto il 22 febbraio, quando a seguito dell'ennesimo, perché non fu l'unico, editoriale del professor Panebianco sul Corriere della Sera, in cui si invocava a gran voce l'intervento in Libia, tra l'altro anche con metafore ha fatto carine, come no, l'unificazione dei popoli, si fanno quei cannoni e non con la carota. Ecco, insomma, questa, come dire, in seguito a questo editoriale, ma poi in generale anche altri che il barone aveva scritto, decidemmo, no, di andare a contestare, entrando in aula all'inizio di una delle sue lezioni, tra l'altro di teoria della pace e della guerra, quindi insomma a margine si potrebbe anche trattare ironicamente, no, il nome e la disciplina insegnata da questo professorone. Entrammo dentro riproducendo dei suoni di guerra, insomma, in qualche modo contestando, entrando nel merito, no, di quello che lui aveva scritto sul Corriere della Sera e cercando di smontare e attaccare quello che secondo noi è tuttora, insomma, un pensiero guerresco, un pensiero militare, un pensiero pericoloso e dannoso per i riscontri sociali che produce, perché appunto non è soltanto docente di scienze politiche a Bologna, ma è anche editorialista del Corriere della Sera. In seguito ovviamente a questa contestazione ci fu un forte putiferio, una reazione mediatica e politica estremamente folle, e vennero paventate queste sospensioni. A distanza di 3-4 mesi, ieri il Senato accademico ha deciso di attuarle. Quello che ovviamente, no, fra tutto ci fa abbastanza scalpore, anche quello che, insomma, due settimane fa, no, è successo qui a Bologna. Il rettore Ubertini incontra Salvini, in una stanza chiusa, intanto che fuori più di 200 studenti lo contestavano, e da questo chiusino che il rettore e il leader leghista si sono fatti esce pubblico soltanto che gli studenti che contestarono Pane Bianco sarebbero stati sospesi. Quindi ecco, insomma, questa è la prova, no, secondo noi, innanzitutto di una pericolosa e assolutamente colpevole ingerenza di un leader politico all'interno di dinamiche tutte interne alla facoltà, alla scuola di Bologna, insomma, all'università di Bologna. Dall'altro un precedente gravissimo sul piano puramente politico, anche di organizzazione interna, no, dell'università. È vero, il rettore Bertini che ha preso questa decisione, è il senato accademico di ieri che ha preso questa decisione, ma insomma è figlio, no, di anni di governance non ubertiniana. L'esito, insomma, del codice etico sono questi provvedimenti, codice etico applicato e approvato dalla scorsa governance, che ha appunto questi primi riscontri pratici, che poi oggi si sono applicati sugli studenti, magari più avanti verranno applicati ad altre persone, per esempio, insomma, al personale universitario. Quindi, insomma, un precedente che noi riteniamo grave da un punto di vista politico. Poi è chiaro, in qualche modo, come dire, l'esito di questa sospensione, che all'inizio è stata paventata in un anno ed è soltanto due mesi, è chiaro, no, che è anche, come dire, una forma di sconfitta, se in qualche modo così vogliamo dire, da parte della governance, no, che ha dovuto in tutti i modi fare qualcosa, nonostante umori affatto positivi. Insomma, ricordiamoci che ci fu qua a Bologna un dibattito, no, fra docenti in difesa della libertà di espressione, che in qualche modo ha messo insieme gran parte, insomma, del corpo docenti, soprattutto della scuola di lettere. Quindi ecco, questa è un po' la situazione che si è creata. È un precedente grave, che in questo caso ha riguardato 4 studenti, la prossima volta potrà riguardarne di più. È grave perché il rettore ovviamente ha detto che non è assolutamente l'ultima volta, però insomma andiamo avanti tranquilli. Oggi con una campagna per l'abbassamento dei costi della mensa andremo ad occupare il rettorato, lì mangeremo in tante e tante, quindi insomma fin da subito sarà chiaro che sì, si colpiscono 4 studenti, ma qui insomma c'è un corpo sociale, c'è un'attivazione sociale collettiva che riconosce nel rettore, nelle sue scelte nefaste, una colpevolezza, ecco, insomma. Sì, esatto, ci ricordiamo in quei giorni a febbraio quando leggevamo i vari articoli anche di giornali mainstream del caso mediatico che si era scatenato in seguito alla vostra mobilitazione all'interno appunto dell'università, un caso costruito soprattutto su questa presunta libertà d'espressione negata a un individuo che di spazi per esprimere la sua opinabile opinione ne aveva già abbastanza. Come hai ricordato, quindi già a partire dalle prossime ore, in occasione della autoriduzione immensa che è già portata avanti da parecchi mesi, avverrà una prima risposta. Noi, Luca, ti ringraziamo, un saluto dai microfoni di Parole Ribelli, ci riaggiorniamo presto. Grazie, ciao a tutti e a tutte. Real shit. I ride for my niggas, dawg. I ride for my niggas. I slide for my niggas, dawg. I ride for my niggas. Stay scheming. Niggas tryna get me. Yeah. It bothers me when the guards get to acting like the bras. Guess everything doesn't come complete with niggas like ours. That's why I see no need to compete with niggas like y'all. I just ask that when you see me, you speak up, nigga, that's all. Don't be ducking like you never wanted nothing. It's feeling like rap changed, it was a time, it was rugged. Back when if a nigga reached, it was for the weapon. Nowadays, niggas reach just to study records. Spaghetti bolognese in a polo lounge. Me and my G from DC, that's how I roll around. Might look like, but we heavy though. You think Drake would pull some shit like that, you never know. $1 million meetings in a polo lounge. Me and my man Oliver North, that's how I roll around. Shorty wanna tell me secrets about a rap nigga. I tell that bitch it's more attractive when you hold it down. Kobe bout to lose 150 M's. Kobe my nigga, I hate it, had to be him. Bitch, you wasn't with me shooting in the gym. Huh. Bitch, you wasn't with me shooting in the gym. Tell Lucy and I said, fuck it, I'm tearing holes in my budget. Bag her like we in Publix and take her ass out in public. Ordered it up for late, told them butterflies, she'll love it. She used to soda and nuggets, she really just tired thugging. I'm just hitting my pinnacle, you and pussy identical. You like the fucking finish line, we can't wait to run into you. But let me get my mind off that young rich motherfucker getting mine off rap with my niggas. I ride for my niggas, dawg. I ride for my niggas. I slide for my niggas, dawg. I ride for my niggas. Stay scheming. Niggas tryna get at me. Dawg. I ride for my niggas. One quarter of the slaughter reporting to your live from across the water in Jersey where I just bought her. Condominium, I see the city from my balcony. Sipping gin with a grin for A1 who had it out for me. Nah, I ain't flossing, I just told you I had mouths to feed. And a grandma that told me from her deathbed she was proud of me. Y'all hear beat, I don't hear just music. I hear an opportunity, a chance and I won't lose it. They told me I was fat, rhyme too hard, I need some smooth shit. Tried to blackball me, but I'm awesome with my pool stick. Mice in every glue trap, roaches everywhere. Piss on every stair, ma, we outta here. I made the studio my home, the streets I left them flat. Sold the rest of my crack and started blessing these tracks. The rest of it is a rap, my knapsack on my back. Tracy gives me a hug and Eminem gives me dap. I'm writing choruses, metamorphed into Morpheus. Putting verses in coffins, it's just another day at the shady office. BET Awards was just a sneak peek at the powerhouse. Wipe your feet, make the teeth, y'all welcome to our house. Rap fans will feel like weed heads in a sour drought. We got that fire. I walk on a stage in a hour, shout, then they shout higher. I'm dressing flyer, but Biggie Smalls, he was no liar. More money, more problems, so though I try to be a better father, baby mama's not in tune. I got another hearing down in child support in June. Bitch, you wasn't with me writing in my room. Bitch, you wasn't with me writing in my room where I dismantled pianos and the violin was doomed. Cause my voice turns everything into a light under a spoon. I'm more than dope. They try to cope with the fact that I'm no joke. But it's hard to not feel burnt when you're out here getting smoked. So one day someone will low can think he's Billy the Kid. And I'll show Billy a kid's just offspring of the GOAT. I'm Earl Manigault. When I twirl my hand, I assault every damn man in the sport. So don't stand foot on the court unless you a baller. Me, I look at the ref and I smile. I'm such a wordsmith. I anticipate a technical foul while you pulling on my jersey. You wanna know me, baby? It only costs $1.50 like Kobe, lady. Listen, how you going? Tell a genius nigga, don't be crazy. I don't believe in if, try, can, almost, or maybe. I get it done, nothing to it but to do it. No excuses, point your finger in the mirror if you blew it. Fucker. I ride for my niggas, dawg. I ride for my niggas. I slide for my niggas, dawg. I ride for my niggas. Stay scheming. Niggas tryna get at me. Dawg. Here we are. Here we are. Here's for the people. Of Egyptian mummies on a flag or a moon, and can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, Cause the chimpanzee, them a make big money. This is how the media villages. On TV, the picture is savages and villages. And the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids. Stereotyping the image of the images. And this is what the image is. You buy a khaki pants and all of a sudden you a say a Indiana Jones. And I think about the gold and think about the scrolls and even the bird bones. Some of the worst paparazzi I've ever seen and I've ever known. Put the words on this place that the world can see and it's all that will ever show. So the ones in the west will never move east and feel like a dear tone. Get tricked by the beast but the way them gonna flee when the monster is fully grown. Salamonic lineage where them still can't defeat and them could have never clone. My spiritual DNA that prints in my soul and I will forever own. Lord. Yeah. Sabali, that's patience. That's what the old folks told me. Can you get with that? Discovering a world before this world, a world buried in time. Uncovered with rhymes. It gets no realer. We born unknowing. Are we born knowing all? We growing wiser. Are we just growing tall? Can you read thoughts? Can you read palms? Can you predict the future? Can you see storms coming? The earth was flat. If you went too far, you could fall off. Now the earth is round. If the shape changed again, everybody would have start love. The average man can't prove up most of the things that he chooses to speak of. And still run research and find out the root of the truth that you seek of. Scholars teach in universities and claim that there's nothing cunning. Tell them find a cure when we sneeze and that's when their nose start running. And a rich get stitched up when we get cut. Wanna heal them broken bones in the bush with a wet mud. Can you re-signs? Can you re-stars? Can you make peace? Can you fight war? Can you milk cows? Even though you drive cars. Can you survive? It's all hard. Night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle and fight dark forces in the clear moonlight without fear. In song, I can't get any sleep. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight. I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. 12.08, di nuovo ciao dai microfoni di Parole Ribelli. Adesso facciamo, insomma, parliamo di buone notizie. Infatti la scorsa settimana è stato liberato Luca, uno degli 8 studenti che si trovano che si trovavano ai domiciliari per la contestazione del FUON all'interno dell'università, in particolare del campus Luigi Einaudi. Ecco, Luca è stato liberato e lo salutiamo nel caso ci stesse ascoltando. Cogliamo questa occasione, insomma, per aggiornare un attimo rispetto alla campagna che come collettivo universitario abbiamo messo in piedi proprio per sostenere i compagni che da mesi, insomma, oramai si trovano nella condizione di non poter frequentare le lezioni, di non poter sostenere gli esami, di non poter uscire di casa e di non poter comunicare con l'esterno. Avevamo già fatto girare un appello tempo fa che voleva raccogliere firme da parte di tutto il mondo accademico e che appunto si appellava alla libertà di studiare. Questa settimana sta girando una petizione su Change, sempre in merito a queste cose, che naturalmente invitiamo a far girare. Per la campagna al campus, da oggi fino a venerdì, abbiamo in programma una serie di iniziative per dare, insomma, un po' di visibilità alla questione. Cominciamo da oggi, in cui appunto renderemo visibile, insomma, direttamente il problema dei nostri compagni che non ci possono essere, e faremo un banchetto per firmare la petizione, insomma, e se qualcuno passasse di lì invitiamo a fermarsi. Ma adesso andiamo a parlare della giornata di venerdì, che forse è la cosa un po' più interessante, perché ci sarà al campus il concerto di Murubutu. Anche questo, insomma, un'iniziativa inserita all'interno delle varie iniziative che stiamo facendo per la campagna della libertà di dissenso, e ci daremo quest'oggi, diciamo, anche a un approfondimento un po' musicale su questo artista, e insomma ascolteremo un po' di pezzi. Comunque ricordiamo l'appuntamento di venerdì 27 maggio alle ore 22 al campus Luigi Einaudi. Naturalmente l'ingresso è gratuito. Un saluto ancora a tutti i compagni e le compagne che non possono essere con noi da Parole Ribelli. Il giro del mondo in un giorno, il giro del giorno in un mondo, il giro di un giorno, il giro del mondo. TNT. Dimmi tu se c'ero o no. Io non distingo falso vero, ma a me. Ma questi giorni mi sogni van su, le mani van su, richiami van su. Dimmi tu che passa, ma in questa gabbia manca l'aria. Oh, e mentre parlo i miei occhi van su. Oh no, e mentre parlo i miei sogni van su. Io vidi posti che mai vidi mai. Naviga i tuoi sogni con gli marinai. Vidi gente e terre che tu mai vedrai. Culture sconosciute, ribelli e focolai. Io non so più quello che è vero, frutto del mio pensiero. Fu tanto tempo fa, da tanto tempo, ma la mia mente forse è mentira. Ma ci apriva i suoi occhi quando era giorno, e rigettava il torto che vedeva attorno. Si richiudeva nel sonno in un secondo, se ne scappava nel suo viaggio attorno al mondo. Salgo in una delle tante albe col cielo a scaglie, poi si voltò a salutare dal porto di Buenos Aires. Lui, avventuriero, fiero sul suo veliero, immortalato in bianco e nero dal lampo di magnesio. E non temeva la morte né le intemperie, né lui uomo solo.

portare solidarietà ai nostri compagni e compagne. Dalla prossima edizione, maggiori aggiornamenti, vi chiediamo quindi di rimanere sintonizzati per cercare di partecipare numerosi alle nostre iniziative. E allora, per farvi venire insomma un po', per insomma darvi un'anteprima della serata che ci sarà venerdì al Campus Einaudi, quindi il primo appuntamento che possiamo darvi per certo rispetto alla campagna, quindi col concerto di Murubuto, vi abbiamo appena fatto ascoltare, scusate, un pezzo tratto dall'ultimo album Gli Ammutinati del Bouncing, che lo stesso Murubuto ha definito come mirabolanti avventure di uomini e mari, un nuovo contributo al connubio fra rap e letteratura, un nuovo disco di letteratura. Gli Ammutinati del Bounce nella mia nuova raccolta di rap conti, caratterizzati da un comune denominatore: il mare. Declinato in varie prospettive, il mare non solo come ambientazione, ma soprattutto come metafora dell'esistenza. Il mare come bellezza, meraviglia e mistero, ma anche come mezzo attraverso cui leggere fenomeni complessi come flussi migratori, detenzione, solitudine, aborto e disabilità. Sono storie raccolte sul territorio, ricordi di viaggio e di studi, il tutto sviluppato attraverso quella ragnatela di vincolo e libertà che la scrittura in rima. Mariani e uomini di mare, grafomani, avvoltoi e ammutinati. I racconti contenuti nell'album sono immersi nell'acqua come tante isole di un arcipelago, che chi ascolta può visitare in successione, vivendo nelle differenti atmosfere, attraversando i dettagli dei paesaggi. Ognuna presenta messaggi immediati che si muovono in superficie e altrettanti significati che emergono solo dopo vari ascolti. Quello che vi stiamo leggendo sono le parole dello stesso Murubuto in un'intervista che abbiamo trovato online, in cui appunto parla un po' dell'ultimo disco, che sarà anche al centro del concerto appunto di venerdì, e che insomma tocca una serie di temi che ci sono sicuramente cari, come appunto quello della libertà, e che quindi sarà sicuramente assolutamente in tema appunto con l'intento della serata. Prosegue Murubuto: il titolo del disco è una dichiarazione di intenti di chi non vuole porsi al di fuori dell'hip hop italiano, ma vuole dargli un forte stimolo affinché si emancipi dagli stereotipi e dai cliché che lo caratterizzano pesantemente sia nel mainstream che nell'underground. L'ammutinamento è la rivolta a bordo di una nave che segue una rotta imposta, dove gli insorti si ribellano alle decisioni del comandante e dei suoi ufficiali e se ne impossessano cambiando la direzione. Dopo, cosa succede a bordo? Quali sono le coordinate della nuova rotta? Radicale innovazione tematica, forte connotazione culturale, priorità assegnata allo storytelling, e tutto ciò senza cedere di un passo circa l'attenzione allo stile. Come ogni ammutinato, spero che qualcuno condivida il mio intento e mi segua per aiutarmi a modificare la rotta attuale di questa grande nave. Diversamente sarò io ad abbandonarla e resterò tra le mie isole assolate di storie in mezzo ad un oceano fatto di rime. Quindi questa è la presentazione che Murubuto ha fatto del suo ultimo album, che insomma ricalca quello che è un po' lo stile di questo artista sicuramente particolare all'interno del panorama dell'hip hop italiano. Ricordiamo che Murubuto, oltre insomma a scrivere in rima, anche un docente, insegna in una scuola a Reggio Emilia, e niente, quindi adesso vi facciamo ascoltare un altro pezzo tratto dal suo ultimo album, quindi buon ascolto. Sì, sì. La spia turca entrò la notte nel golfo, fra le onde del porto, avevi assato veleniere per non essere scorto suo bordo, contro le navi nemiche sul posto, rimanendo nascosto, poi riferia sua maestà l'entità della flotta pronta allo scontro, la flotta della Santa Alleanza di Venezia e di Spagna, in nome della Santa Fede, truppe della Santa Sede, Genova e Malta, comandate da Giovanni d'Austria che reggeva sull'acqua, una croce d'oro la resse alta per la durata dell'intera battaglia. La furia batte con un'altra bandiera, un'altra barriera, un'altra frontiera, dal mare s'alzala un'altra albanere, bombarda un'altra galera, e l'onda batte con un'altra bandiera, un'altra barriera, un'altra frontiera, dal mare salza da un'altra banere, bombarda, bombarda. Il vento cambia in un attimo decretando l'attacco di Cristo contro la sublime porta, l'imbocco del golfo di Patrasso, e flotta contro flotta con un attimo impatto, ma la forza d'urto delle galeazze di San Marco travolse ogni ostacolo, le 38 bocche da fuoco fecero il vuoto sui nemici, il rumore del fasciame schiantato da palle di piombo da 40 kg sfasciato da bocche da

12 e mezza, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata di Parole Ribelli. Questa mattinata, da che siamo qui, non abbiamo avuto aggiornamenti rispetto all'operazione di polizia che è avvenuta questa mattina a Torino nei confronti di compagni e compagne dell'asilo occupato. Abbiamo saputo che, insomma, ci sono state diverse perquisizioni e negli spazi occupati di Via Alessandria, di Via Lanino e di Corso Giulio, e in diverse abitazioni sono stati poi appunto notificati 12 divieti di dimora. Il pretesto è un'azione di disturbo contro la diesel, la ditta che fornisce i pasti e i vermi ai reclusi del CIE di Corso Brunelleschi. Ci sono per ora novità, comunque naturalmente mandiamo un saluto solidale dalla trasmissione. A questo punto potremmo passare a leggervi gli appuntamenti. Cominciamo con mercoledì 25, cioè oggi, stasera, per cui al Mezcal occupato del Parco della Certosa di Collegno, erbe, malerbe, pozioni, terzo ciclo sull'autogestione della salute, ore 19 aperitivo Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare da bere o da mangiare, ore 21 presentazione del libro Erbe Antichi Rimedi, una ricerca sui saperi e di rimedi popolari utilizzati in Valle di Susa, sarà presente l'autrice. Di scappare se sogno che ti rincorro, anche se ti consiglio di levarti di giorno, notte e giorno, sul binello il treno, nel pieno della velocità senza freno, premo il tasto di sbosco come caterpillar in Amazzonia, per combattere la noia come un boia, indoio, fate largo se passiamo nel corridoio, muoio. Passiamo alla giornata di domani, giovedì 26 maggio, riprendono le piole di blackout in quel di Via Cecchi, quindi l'appuntamento per domani dalle ore 19 nel cortile A. Dal lietare dal vivo la serata ci sarà il trio du Brasil, Bossa Nova Acoustic Brasil per l'appunto. Oltre ogni limite, no, non ti chiudere, non mi deludere, spingi il pensiero oltre le lumene. Partiva ad un'ora buona, la sole saliva ancora, nel soldo di sua signora, la corona di Lisbona. Partivo col vento in poppa, la rotta fuggivi, limiti il peggio del sud Europa, giù in rotta verso gli antipodi. Dovevamo oltre il confine, giù in file verso l'ignoto, il nostro fine era riempire le stive di file d'oro e scoprire il contorno dove il mondo va a fuoco molto prima di Colombo, Cabral e Cabo. Sempre domani alle ore 13 in Corso Palermo 46 l'assemblea antimilitarista per preparare la manifestazione del 2 giugno contro tutti gli eserciti per un mondo senza frontiere. Ben oltre i pontini, se passi gli spini trapassi tra i mitici. Navigavamo su un brigantino, vela quadra, vela latina, il capitano un assassino, la ciurma, melma marina, lo giuro, non fu una vita, una sfida, l'ira divina, gli scali, gli scacchi e piccoli squali nella sentina. Passarono mesi, anni, furia d'acqua, calma piatta, poi la sabbia dalla gabbia, nella via rara fatta, vidi terre d'altri mondi, gli indigeni senza fede, cinocefali, gli astomi, guerrieri da un solo piede, con pietre che crele battenti, sia schiere contro noi fieri battenti, bandiera, portoghese, lottano stenti per mesi, sfidando tutte le truppe, aragonesi, genovesi, le avanguardie, mamelucche di Malesia, luna piena, bruciare fra le scialuppe, le galene in quarantena, la larga delle Molucche, ma il mondo sconosciuto, il mondo conosciuto, i corpi morti, morti a mollo, falciati dallo scorbuto, non passi confini, soffassi confini, se passi e gli spini, non passi, non vivi, tu passi confini dei mari infiniti, dei mali più ostili, soffitti e riuniti, tu passi confini, tu passi al brividi, comparsi confini, oltre passi dei libri, comparsi al brividi, ben oltre i pontini, se passi gli spidi, trapassi fra i nidi. Nozzo, sud-est, non c'è merito, viaggio in ostaggio. Passiamo ora a venerdì 27 maggio, in serata al Visrabbia di Avigliana, un incontro pubblico con Giovanni Impastato e Carlo Bonmarito dell'associazione Peppino Impastato dal titolo Legalità o giustizia sociale, organizzato da Spinta dal Bass. A questa iniziativa parteciperanno inoltre anche le Mamme in Piazza per la Libertà di Senso, che presenteranno la loro petizione lanciata sempre su Change, che invitiamo a firmare e diffondere in solidarietà appunto con le ragazze e i ragazzi di Torino sottoposti da diversi mesi a pesanti misure cautelari. ma Claudio tu dove che vai dai, e non so quando ritornerò, isola per te, forse dal morto io che ne so, non so più niente, questo cielo non è un altro cielo, e tutte le cieli non si qui, tu che forse conosciamo solo lui e te. Lui che era nato una notte abbandonato nell'ombra da un marinaio allo sbaglio, un'isolana sedotta, cresciuto sull'isola scordata da Dio, diceva l'isola è mia madre, mio padre sono io. Il bimbo dagli occhi forti si tuffava nei vortici, succava fra cascate di euforbie e garofani, tra i manti furti dei caracapi incogli, un sovrano di un mondo che vibrava negli occhi suoi, poi si tuffava fra le ombre dei faraglioni che forse sono le tombe dei pesci faraoni, le furie dei cavalloni, le cuglie per i moti ondosi, la spuma polverizzata sui balconi multicolori. Ma una voce diceva vai via, sai quanto è grande il mondo, fuori di qua non so neanche io chi sia, e se mi pento ritorno, no, non so quando ritornerò, se quando soffia il maestrale, forse quando ritornerò, e riuscirò ad ammaestrare il mare. Claudio vuole andar via, poi non vuole andar via, Claudio cerca una via, cerca una via, qualunque sa sì, sì, non so quando ritornerò, isola per te, cose da morto io che ne so, non so più niente, questo cielo non è un altro cielo, in tutte le cieli non sei qui, tu che forse conosciamo solo io e te. Claudio si è fatto grande, il bimbo si è fatto uomo, cresciuto col corpo al sole, ha negli occhi riflessi d'oro, ha i riflessi pronti di un uomo fatto da solo, solo cresce, solo vive, solo fugge verso il vuoto, ha imparato la vita grezza con gli isolani nei campi, la stima e la gentilezza dai loro occhi grandi, la fibra della fierezza dal volo dei falchi, la cifra della bellezza dai colori degli oleandri, ora vuole prendere il largo, superare l'arcipelago, gli basta una vecchia barca ed eccolo il suo Pegaso. Allora sono le 12.35 per questa settimana, Parole Ribelli vi saluta, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, l'invito come sempre a rimanere sintonizzati sui 105.250 e vi lasciamo con una canzone di Enrico Cantamale che aprirà tra l'altro il concerto di venerdì sera al Campus Luigi Einaudi alle ore 22. Un saluto a tutti e a tutte. Amici, state calmi, ascoltate una canzone che parla di cose brutte, polizia e repressione, della disgraziata volta in cui mi ha messo dentro. Ora do un paio di numeri e nel mentre mi presento non dico il mio nome, di anni 92, i miei numeri preferiti, l'1 e 3, poi l'1 e il 2. Mi trovi in Corso Regina, chiedi del 47, con altri come me, allergici alle camionette. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di Vanchiglia. Una sera come tante tornavo dal barricata, da solo e ubriaco alla fine della serata. Mi si avvicina un tizio, mi dice amico mio, avresti mica un accendino perché ho smarrito il mio. Lui dice forse sbaglio, ma sembri proprio tu, quello che tirava sassi, io ero quello vestito in blu. Era quella la più letale di tutte le sigarette, quella che mi avrete spedito di lì a poco alle Vallette. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di Vanchiglia. Mi mostra il tesserino e un sorriso sul suo grugno, mi chiede i documenti, gli rispondo con un pugno. In un lampo sbucati dal niente ne avevo addosso tre, uno sbirro e due di Gossini, mi dicevano non ce n'è. E furono pugni e calci, manganelli e poi manette, ogni ora che passava mi sembravano più strette.